Radio 24 Reportage. L'agricoltura italiana verso l'Expo. Il caso Puglia di Alessandra Tedesco. È una delle regioni italiane che conserva ancora una forte vocazione agricola, senza rinunciare all'innovazione. In Puglia, agricoltura vuol dire produzione di materie prime, ma vuol dire anche turismo con la diffusione di strutture ad hoc. Qui l'agricoltura ha affrontato la crisi meglio che altrove, anche se non mancano i problemi e i punti deboli. Un quadro dell'agricoltura pugliese viene fatto da Gabriele Pagliardini, direttore dell'area politiche per lo sviluppo rurale della regione. In questo contesto la Puglia è cresciuta di più che la media nazionale, cioè mentre il settore dell'agricoltura in sede nazionale è cresciuto del 6%, la Puglia cresce di oltre il 10%, portando un valore della produzione pugliese a 4 miliardi e mezzo di euro, mi sembra una cifra molto interessante. Cresce moltissimo anche l'export dei prodotti pugliesi con un più 27%, sono dati riferiti a un periodo 2008-2013, quindi anche qui c'è un segnale, cioè cresce il valore della produzione, cresce contemporaneamente l'export, una estensione complessiva territoriale della SAU, cioè della superficie agricola utilizzata per fini agricoli, di 1.300.000 ettari circa, 271.000 aziende. Questo è un dato un po' in calo, ma noi lo vediamo come un dato positivo, perché il dato della numerosità delle aziende che si riduce rispetto a un volume della produzione che aumenta significa che noi stiamo facendo crescere dimensionalmente le aziende, quindi chiudono le aziende marginali, quelle che fanno agricoltura tradizionale, mentre si cresce su altri ambiti, e quindi questo per noi, diciamo, è un dato positivo. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Ma le aziende agricole in Puglia non stanno cambiando solo dimensioni, stanno anche diventando più giovani. I padri lasciano la guida ai figli, che puntano su innovazione e nuovi mercati, e ci sono sempre più giovani che decidono di avviare un'impresa. Questo anche grazie al piano di sviluppo rurale 2007-2013, che ha concentrato l'utilizzo dei fondi europei sul ricambio generazionale. Ancora Pagliardini. Certamente una cosa che abbiamo fatto bene è incidere sul ricambio generazionale in agricoltura, una di quelle esigenze avvertite che ci ha portato ad insediare 2.000 nuovi giovani. Queste sono aziende che si sono insediate nel 2010. Su 2.000 aziende c'è stata una mortalità vicina alle 50 aziende. Significa che abbiamo, come dire, non solo inciso sul ricambio generazionale, ma abbiamo permesso degli insediamenti di nuovi giovani strutturati. In Puglia agricoltura non vuol dire solo coltivare materie prime. La parola d'ordine è diversificazione come modo per reggere l'impatto con la crisi. Una spinta alla diversificazione è arrivata dai GAL, gruppi di azione locale previsti dall'Unione Europea per favorire lo sviluppo rurale e gestire i finanziamenti comunitari. I GAL pugliesi sono il fiore all'occhiello, hanno il merito di riuscire a investire tutte le risorse messe a disposizione dall'Unione. Sono quelli che conoscono meglio il territorio e quindi possono indirizzare al meglio l'attività delle aziende locali, ma nello stesso tempo comunicano a livello regionale o più alto le esigenze degli agricoltori. Alberto Casoria, coordinatore dei GAL in Puglia, ci racconta che lavoro è stato fatto in questa regione e quali sono le richieste degli imprenditori agricoli locali. Molti agricoltori hanno capito che per poter rimanere nei territori la diversificazione è un punto di forza, quindi noi in questi anni abbiamo puntato molto e abbiamo impegnato tantissime risorse sulla diversificazione. Parliamo di affittacamere, di agriturismi, di masserie didattiche, di fatteria sociale. Parliamo di tutto quello che è un'agricoltura moderna. Sta costruendo un modello di sviluppo alternativo dove non c'è solo l'agricoltura, ma agricoltura vuol dire anche turismo. Agricoltura vuol dire anche territorio, vuol dire anche ambiente. Ragion per cui quello che oggi si chiede di più è un'attenzione nei confronti, voglio dire, di quello che è il paesaggio, la natura, cioè Noi abbiamo avuto in regione quest'anno tantissimi momenti di alluvioni, catastrofi naturali, ma quello che viene messo sempre in evidenza è che se il territorio viene abbandonato a se stesso, il territorio si ribella. Quindi gli agricoltori chiedono risorse per poter continuare a fare il loro lavoro mettendo in sicurezza il territorio. Se non te scerri mai delle radici cadieni. Ed è lo stesso Casoria a illustrarci i punti di forza e di debolezza dell'agricoltura pugliese. Allora, i punti di forza sono significativamente la capacità di innovazione. Questo è un elemento che è presente in maniera ormai diffusa in Puglia. Certamente la qualità. La qualità è fondamentale, i prodotti pugliesi, se noi andiamo in ogni parte della Puglia, la qualità dei prodotti pugliesi è eccellente. I punti di difficoltà, quelli che io vedo ancora, voglio dire, che resistono, è la scarsa propensione a mettersi assieme, a fare, noi usiamo sempre questo termine sistema. Fare sistema vuol dire la capacità delle aziende di mettersi assieme in un tessuto quanto più possibile omogeneo ma diversificato per fare, voglio dire, per essere più competitivi, per andare al di fuori dai canali, voglio dire, europei e per competere, voglio dire, pensiamo ai grossi mercati internazionali, alla Cina, alla Russia. A me me basta l'usule, a me me basta l'usule. Fra i problemi dell'agricoltura in Puglia, la scarsa propensione a fare rete. Ogni azienda va per conto proprio e visto che si tratta spesso di imprese piccole, da sole non riescono ad arrivare al mercato nazionale, figuriamoci a quello estero. Per questo, fra gli obiettivi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 in Puglia, c'è proprio quello di favorire la creazione di reti di imprese. E non solo, come spiega ancora Gabriele Pagliardini, direttore dell'area politiche per lo sviluppo rurale della regione. Dobbiamo fare qualcosa in più e quindi abbiamo diversificato gli interventi tra il passaggio generazionale e i nuovi insediati, incentivandoli con premi diversi. I premi di primo insediamento per i giovani che provengono da passaggio generazionale saranno di 40.000 euro, quelli per i giovani che invece avranno un problema in più, che è quello di costruire l'azienda, sarà di 60.000 euro. L'altro aspetto che io credo caratterizzerà molto questa programmazione è quello dell'aggregazione. Noi abbiamo un problema, come dicevamo prima, che è quello della frammentazione aziendale, quindi dobbiamo agire su due leve, quello della crescita dimensionale e quello dell'aggregazione delle imprese. Per dirle, gli interventi singoli per noi non sono la priorità. Gli interventi singoli delle singole aziende sono finanziati con un determinato tasso d'aiuto solo se sono collegati ad investimenti collettivi. Quindi se io realizzo degli investimenti collettivi di filiera o aggregati, investimenti in infrastrutture extraaziendali, se invece sono investimenti collettivi semplici, quelli destinati alla singola azienda punto e basta, avranno un tasso d'aiuto inferiore e saranno incentivati in maniera minore. Yeah. La parcellizzazione non è però l'unico problema per le aziende agricole pugliesi. C'è anche la questione dei falsi, che arrivano soprattutto dai paesi come la Cina. Le richieste degli agricoltori, nelle parole di Carmelo Greco, direttore del GAL dell'Alto Salento. Si facciano più controlli. Più controlli che significa? Noi abbiamo fatto qui in questo paese e in Europa, abbiamo creato le DOP, le IGP, prodotti a marchio biologico, sono prodotti che hanno una certificazione, hanno un controllo, hanno una tracciabilità. Se questi controlli vengono fatti capillarmente, si va a controllare che effettivamente quei prodotti sono prodotti che vengono dall'Italia e che abbiano quelle caratteristiche che le DOP, le IGP e tutto il resto indicano, sarebbe una cosa ottima, perché vuol dire che il consumatore intanto sta prendendo un prodotto di qualità ed è certo da dove viene. Questa è casa mia, terra mia, l'usalento non se tocca. Altra questione è che il sistema agricolo pugliese appare monco. Grande produttore di materie prime, zoppica un po' nella trasformazione e nella commercializzazione. In altre parole, i grandi affari li fanno gli altri, come spiega Nicola Panaro, agronomo e coordinatore del CIBI, il Consorzio Italiano per il Biologico. Spesso manca nel convenzionale l'attività di trasformazione e commercializzazione e quindi nella presentazione dei prodotti a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Queste due sono pecche che la Puglia, ma il Sud Italia, si porta da sempre. Nel biologico c'è maggiore dinamismo, quindi maggiore attenzione, maggiore partecipazione a fiere nazionali e internazionali. Però è un handicap che comunque si trascina dietro, è meno evidente ma esiste. Quindi anche da parte di varie strutture regionali si cerca di aggregare le aziende biologiche, perché l'aggregazione della materia prima e quindi della trasformazione del prodotto apre lo spazio alla commercializzazione e ad avere interlocutori commerciali importanti. E l'agricoltura biologica è una realtà importante in Puglia. I primi finanziamenti per il bio risalgono al 1996. Il settore è stato sempre in crescita fino al boom degli ultimi 3 o 4 anni. Ad oggi ci sono 6.500 aziende biologiche in questa regione, come racconta ancora Nicola Panaro del Cibi. L'agricoltura biologica in Puglia ha sempre avuto percentuali importanti, sia in termini di numero di aziende, sia in termini di superfici. Da prima lo sviluppo in Puglia, ma in tutto il sud d'Italia, dell'agricoltura biologica è avvenuta per i finanziamenti comunitari. Successivamente hanno visto che esiste un nuovo mercato del prodotto certificato e pian piano il numero delle aziende che certificano il prodotto biologico è andato sempre in aumento. Le musiche che avete ascoltato in questo reportage erano dei Sud Sound System. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.